Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Se non fosse vera, sarebbe uscita dalla fantasia degli sceneggiatori americani. Anzi, suggerisco alla Guardia di Finanza di Locri, Reggio Calabria e Palermo e alla Procura di Reggio di unirsi nel copyright dell'operazione Artù, con la quale il 2 agosto hanno sventato un tentativo di riciclaggio colossale attraverso l'incasso di un certificato di deposito in oro del valore nominale di 870 milioni di dollari emesso il 14 agosto 1961 dall'allora Credito Svizzero al nome del dittatore indonesiano Sukarno. Con gli interessi maturati, il valore arrivava a 39 miliardi di dollari. Sì, avete capito proprio bene, 39 miliardi di dollari, roba da piazzarsi per 100 vite terrene. La vicenda partì il 29 settembre del 2009, quando a Rosarno fu sequestrato il certificato di deposito a due soggetti di Taurianova vicini alla cosca Fazzalari, Viola, Avignone. Da quel momento la certosina pazienza della Guardia di Finanza ha permesso di ricostruire una storia che ha dell'incredibile, nella quale uomini legati alla 'ndrangheta e a Cosa Nostra faranno di tutto per negoziare il titolo con molte banche, incuranti delle indagini in corso. Per giustificare la legittima origine del certificato di deposito, gli indagati si erano rifugiati dietro un atto di liberalità mortis causa di un vescovo, Monsignor Domenico Ferrazzo, a uno di essi legato da rapporti di parentela. L'altro prelato lo avrebbe a sua volta ricevuto dall'ex dittatore Sukarno durante una missione ecclesiastica in Indonesia, in ringraziamento di un intervento dello stesso prelato nel corso di un moto rivoluzionario che gli aveva consentito di sfuggire alla morte. Tutte balle, tranne il fatto che il 2 agosto sono stati fermati e le banche hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo. Buona giornata e a domani.